c'era da venire, non c'era da venire, non c'era da venire, ci sono venuto. Sulli sospira tua, sulli sospira tua, sulli sospira tua, m'hanno chiamato. Ah, Willy, mo lo vecchio di venire, mo lo vecchio di che lamenta la mano e se ne va. Ah, Willy, Willy, Willy, mo lo vecchio di che lamenta la mano e se ne va. Quando ti vasa, ah, Willy, Willy, Willy, la pacchina è la mia quando chiama da venire. Ah, Willy, Willy, Willy, la pacchina è la mia quando chiama da picchia picchia la porticella, c'è la mia bella che mi viene a aprire. Picchia picchia la porticella, c'è la mia bella che mi viene a aprire. Con una mano apre la porta. Oh, la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciati la metropoli, belli come noi, ben pochi sai, ce n'erano. E dicevano, quelli vengono dalla campagna. Ma ridevano, si spanciavano, già sapevano che saremmo ben presto anche noi diventati come loro, tutti grigi come grattacieli, con la faccia di cera, con la faccia di cera, è la legge di questa atmosfera che sfuggire non puoi fino a quando tu vivi in città. Nuda sulla pianta prendevi il sole con me, e cantavano per noi sui rami le allodole. Ora qui però nella città i motori delle macchine già ci cantano la marcia funebre. E le fabbriche ci profumano anche l'aria, colorandoci il cielo di un nero che odora di morte. Ma il comune dice che però la città è moderna, non ci devi far caso se il cemento ti chiude anche il naso. Addirittura. Ah, io non respiro più, mi sento che soffoco un po'. Sento il fiato che va giù, va giù, va giù, va giù, e va giù, e non viene su, non si rizza più. Sento che però, no, che però, qualcosa però, secondo me qualcosa sta nascendo. Forse è un albero, è un albero? Sì, è un albero di 30 piani. Avrei dovuto fermarmi a cercare il momento preciso in cui arriva l'estate. Io ti chiedo perdono. Perdono. Avrei dovuto riempirti il bicchiere di vino e di miele, di cielo e di oro. quante volte ti ho vista passare, neanche fossi un diritto. Che non sai calcolarne il valore, se non lo devi pagare. Quante volte ho promesso di stare, e ti ho vista passare più in là. Ma guarda dietro di te, e già mi vedi arrivare. Era facile in compagnia partir di nascosto ed andarti lontano, ma son rimasto da solo. Cercarti in un mare di niente, non è bastato un bicchiere, non è bastato il mio oro. Perdono, ma stavolta ti sento vicina, ti sento di stare, lo prometto. Saprò stare in silenzio e imparare a capire. Ti ho trovata, eri proprio qui dietro, fatti abbracciare. Ma l'hai visto chi c'è? Chi ti è venuto a trovare? Ti darò due baci, uno per tutti i miei guai, l'altro per tutte le sbornie e l'amore che ancora mi fai. Resto nudo e disposto in gioco per convincerti a stare, già se parlo di te sento arrivare. Baci, uno per tutti i miei guai, l'altro per tutte le sbornie e l'amore che ancora mi fai. Resto nudo e disposto ogni gioco per convincerti a stare, che già se parlo di te io mi sento arrivare, che già se parlo di te, io mi sento arrivare.